Cucina quattro amanti e due o tremila nomi, e neanche un uomo che la porti fuori un po', ma intanto tiene il letto pronto e il frigo pieno, oh, e ride in faccia alle comari che mugugnano. Ramengo con la luna piena va sui tetti, dice che per sentirsi più vicino a Dio, balla su case di prudenza e conti fatti. Ui, ui. Chissà perché la sua canzone sembra un miagolio. Gente persa in una piccola città, eterna piccola città, testarda piccola città, con gli occhi chiusi a metà. Piccola città, che cerchi in giro e spesso ciò che cerchi è qua. C'è chi la ama, chi la odia e lei rimane piccola. Braccio un pacco da sei birre ed il diritto di sedersi dove può, a dar la nanna un po' ad un altro brutto giorno, oh, se se la prende bene fischi e te ne offre un po'. Immersa in una piccola città, già vista piccola città, che esiste piccola città, con gli occhi aperti a metà. Piccola città, che sa non ho un'anima però ce l'ha, se ripassate fra cent'anni ci trovate sempre qua. Da chi non riesce a farsi i cazzi suoi, c'è chi la spegne, chi si sintonizza bene, oh, sei uno di loro o sei quello che tu vuoi.